pace interno sull'armator ancora mi spingesse. Chiuso era l'uscio e la ragion deserta, e l'opera sarà tua l'angiol caro, colei che prima poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei si pura il cui molesto sguardo quasi spinto a virtù allor mi credo. Ella mi fu rapita e chi l'archiva, avrò vendetta. Per